il verde ora. Ma subito. Te ti addormenti. Pigi il verde, dai. Tutti convocati di Carlo Genta. Siamo davanti a una partita molto importante per il club, per me, per i calciatori, per la loro vita, per la loro carriera. E poi ce n'è un'altra altrettanto importante, non è facile recuperare, per cui ci vogliono una ventina di calciatori forti, calciatori forti. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. Questo preliminare dà veramente la sensazione che cambierà tutta quanta la nostra stagione in base a questo risultato. Non cambierà la stagione, ma cambierà anche la nostra impostazione mentale. E noi, come dicevo prima, ora siamo una squadra forte, noi siamo forti da tutte le parti e siamo pronti per questa sfida importante. Siamo pronti per questa sfida importante. Scusatemi, volevano mettermi l'inno della Champions, ma io ho bisogno di With or Without You per questa giornata. Ringrazio Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, Alvise Falzone, non so dove sia, ma credo sia qui anche lui. Avevo bisogno di With or Without You per riallacciare la mia relazione con Pierluigi Pardo. C'è qualcosa che mi devi dire, Carlo? È successo qualcosa che non devo posso... fare. Devo fare outing anch'io. Come va? Benissimo, tu come stai, Pier? Bene, bene. Ti ritrovo. Ma no, ma stavo pensando a te anche perché ti ritrovo oggi. Commenterai questa sera la partita per Mediaset Premium, ovviamente, questo preliminare, eccetera. Ti ritrovo nella tua città di elezione perché io so tutto di te. So quanto ami quel posto e so quante emozioni senti per questa partita. Sì, anche se questo sono forse il posto più brutto di Porto, che è esattamente dietro lo stadio Odragao, non lontano da Gondomar, posti abbastanza amari. Però sì, la Porto è una città magnifica che consiglio di visitare a tutti, come un po' tutto il Portogallo. Non lavoro per Prologo, quindi sono assolutamente genuino in questa mia e stasera, insomma, la visita non è visita di piacere, speriamo diventi visita di piacere. Insomma, io ti dico la verità, ho sensazioni buone perché al di là della tradizione complessiva del Porto, che è nettamente migliore a livello europeo di quella della Roma, se guardiamo la qualità dei 22, insomma, Porto ha una buona... Secondo me c'è anche un pochino di esagerazione, di ricordo di questo club per quella, sì, che è la sua storia e tradizione. Nome e maglietta, certo. Ecco, ha chiuso almeno 15 dal Benfica, almeno 13 dallo Sporting Lisbona secondo, quindi in questo momento nel calcio portoghese è un outsider, ha un tridente con 2,95 e 1,93, giocatore di buona esperienza, poi una bottega sempre molto cara e quindi è chiaro che tutti i giocatori sono giocatori con clausole. Danilo ha una clausola da 50 milioni, Herrera sappiamo che è stato rifiutato ed è il tema principale sui giornali portoghesi di oggi perché è stata fatta ieri una domanda a Spalletti, ma insomma sono giocatori buoni, ma, sì, certo, ma di fascia media. Io penso che se la Roma fa due buone prestazioni passa il turno, questo è quello che penso io. Sì, ma io ho messo With or Without You anche perché insomma sono tanti anni che questo preliminare ci condanna without you, cioè without la Champions League, without la terza squadra in Champions League, e per noi ogni volta è una mazzata terrificante, quindi bene avere fiducia, male fidarsi anche di un Porto che insomma segue la sua tradizione, cioè quella di ricostruirsi per poi vendere, per avere una bottega molto cara, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte considerazioni che ci stanno, però è difficile fidarsi di questo preliminare. Sì, no, ma è difficilissimo fidarsi ed è un preliminare 50-50. Adesso ho iniziato in maniera ottimista, ma è ovvio che sia 50-50, però io credo che la Roma nella seconda parte della passata stagione può fare, non dico neanche l'impresa, può fare il suo dovere. Può fare il suo, secondo certo. Secondo me è avere la meglio sul Porto. Mi sono anche un po' stancato di sentir dire che ormai l'Europa è proibitiva. È chiaro che i numeri sono complicati negli ultimi 5 anni, soltanto il Milan, tra l'altro con un gol di Shaarawy, questo potrebbe essere diciamo, una simpatica coincidenza, sì. Ha passato il turno contro il PSV, poi abbiamo preso un sacco di schiaffi negli ultimi anni, però ecco, quest'anno mi sembra ampiamente giocabile. Allora, mentre vi invito a chiamare 800 24 00 24, anche per domandare a Pardo ogni tipo di informazione su suo Porto, perché non lavoro per l'ufficio informazioni, però sa tutto di quella città. Io saluto Roberto Renga. Ciao Roberto. Sì, buongiorno a tutti. Pierluigi, che sta in una città bellissima. Sì, la sua preferita. Infatti, anche la mia, forse. È una di quelle che... La miseria. Cioè. Sì, è bellissima. Ci sono dei ristorantini meravigliosi, tra l'altro, che Pierluigi conoscerà benissimo. Sì. Anche se ti dico, il clima non è il massimo. Piove, insomma, è un po' deludente rispetto ad altre volte. Ma è una città di grande fascino, non è una città di bellezza, diciamo, di tipo tradizionale. È una città che secondo me o ti prende molto e quindi ti piace, oppure può anche serenamente far schifo, nel senso che non è Parigi, ovviamente, non è Praga, vabbè, non è una di quelle città che piace possibilmente a tutti. È una città per irregolari come te, Pierluigi, ma anche come me in parte. Poi io su questo sono più tradizionalista. Se mi dici la mia città preferita al mondo, ti dico New York e buonanotte ai suonatori. Un'altra dimensione, ovviamente. Sono perfettamente. Poi le città ovviamente si legano anche alle cose che hai fatto, con chi ci sei andato, le situazioni. Nello specifico, questa è una città piena di baccalà, per il quale io ho una passione totale, in tutti i modi tranne che fritto. Cioè, il baccalà fritto lo trovo abbastanza deludente, mentre invece anche in Italia ci sono delle zone dove il baccalà viene fatto e cucinato in maniera particolare. Qui hanno, la leggenda racconta che hanno 365 ricette, lo chiamano amico fiel, cioè amico fedele, perché insomma lo puoi, in qualsiasi situazione, alla peggio mangiano. È un po' la nostra pasta, un po' il piatto nazionale. È un po' la cacio e pepe che c'è a Roma, insomma, o la cosa da vaccinare che c'è a Roma. Dovremmo provarlo, ma la cacio e pepe può essere interessante. Mamma mia. Mamma mia. Roberto Renga, invece, stiamo provando io e Pierluigi a farci coraggio, perché insomma io temo moltissimo questo turno preliminare, ma per il passato, per insomma la tradizione recente che ci dice male, per il fatto che è importantissimo per noi portarne tre oltre la soglia del paradiso, e poi perché questa Roma alla fine non la conosciamo ancora benissimo, no? Ecco, bravo, hai sintetizzato. Allora, a noi converrebbe, a tutti, anche ai non tifosi della Roma, che la Roma passasse il turno. Sì. Però c'è anche da dire largo che ai gufi, largo ai gufi. Voglio sentire laziali. Va bene. L'Italia è questa, però bisogna spiegargli che conviene a tutti. Dopodiché, però, il Porto, è vero che sono 3 anni che non vince, per carità, e che tutti diciamo non è il Porto di prima, di Mourinho, e anche prima di Mourinho. Io il Porto lo vidi vincere a Vienna contro il Bayern, per esempio. Col quindi, tacco diciamo, di Dio Rabat Majer? Sì, il colpo di tacco. C'era quel e Juari che ballava intorno alla bandierina. Sì. Ahimè, già c'ero. Allora, dicevo, l'abbiamo visto, no, vincere ovunque il Porto. Il Porto però sono 3 anni che non vince, ma quest'anno ha perso la prima amichevole, poi ha vinto tutte le partite. E adesso io sono curioso di vedere, sono andato anche a studiarmi qualcosa, no? Cosa ha combinato Spirito Santo Sen contro la città del Vaticano, no? È già un bel duello. E ti devo dire che a centrocampo sono molto forti e davanti hanno questi tre ragazzi che non sai come prenderli. Però dietro la coppia centrale è terribile. È lì che la Roma deve, anche il terzino sinistro che è Telles, è lì che la Roma deve puntare e sicuramente lo farà. Pier, secondo te in questo momento quali sono le certezze della Roma? Scusami, perché qua sono multitasking e mi chiedo quanti biglietti hanno venduto. 43.000 biglietti, lo comunico ufficialmente, 600 tifosi della Roma. Dicevi Genta, scusami? No, ti chiedevo, è molto interessante dato i biglietti venduti, 300 tifosi della Roma? 600 tifosi della Roma. Almeno sulla stampa portoghese 600, adesso magari verifichiamo meglio. Ti chiedevo, secondo te, a sensazione, quali sono le certezze della Roma? Guarda, secondo me c'è il tema tattico della partita, al di là del ballottaggio Alisson Chesney, che è un ballottaggio sugli uomini, cioè un portiere un pochino più avanti come esperienza, ma che sta peggio fisicamente per sua stessa missione, è un portiere invece che si è fatto tutto il precampionato, quindi quella sarà una scelta che Spalletti farà, e ieri ha spiegato che poi durante la stagione ruoterà i portieri non in maniera definita, cioè non farà la scelta di un portiere per la Coppa e l'altro per il campionato. Secondo me questo è un errore capitale, che hanno fatto diversi allenatori, compreso Carlo Ancelotti e Mourinho. Ha detto proprio che vuole fare come per, con i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti, cioè scegliere di volta in volta quello che gli darà più garanzie. Ma il tema vero di stasera, secondo me, è Dzeko. Nel senso che Dzeko è un giocatore che ha fatto un bellissimo precampionato, per quello che conta il precampionato, 13 gol in 6 partite. Sappiamo che il feeling con Spalletti l'anno scorso è stato poco, sappiamo che ha qualcosa da farsi perdonare e tatticamente oggi però secondo me non ci sta. Cioè, secondo me oggi per quelle che sono le risorse della Roma, Spalletti potrebbe essere molto tentato dall'idea di partire con Dzeko in panchina e di giocare con un 4-2-3-1 oppure con un 4-3-3 ma con i piccoli davanti, proprio per sfruttare la velocità e l'inserimento e non dare dei vantaggi al Porto, che presumibilmente dovrà attaccare perché gioca in casa, ma che potrebbe appunto aprire delle praterie con due centrali piuttosto lenti. Quindi questo secondo me è il vero dilemma tattico della partita e Dzeko è l'uomo chiave di stasera, nel senso che da un lato è chiaro che non farlo giocare oggi potrebbe significare dargli una mazzata dal punto di vista psicologico, sì. Dall'altra è pure vero che poi oggi Spalletti, oggi e martedì prossimo si gioca le due partite più importanti dei primi tre mesi della sua vita romanista di quest'anno, quindi insomma no, i discorsi su volemo se bene, manteniamo lo spogliatoio, sono secondari rispetto a centrare la qualificazione. Sì, viene anche il pensiero, il sospetto, la sensazione che questo sia il vero DNA della Roma, che quindi tu dici forse converrebbe giocare così, ma forse perché questo è il vero DNA della Roma, Roberto Renga. Ma io penso che per esempio se tu fai giocare Dzeko stasera dai dei vantaggi al Porto, che ha questi due centrali alti, forti fisicamente lenti, ma gli dai un punto di riferimento. Sì. E Dzeko potrebbe sempre giocare con l'Udinese, cioè fra 5 minuti, perché poi avete visto che c'è una partita dietro l'altra, e magari il ritorno. Oppure mettere dentro il Sharawi quando al 25esimo del secondo tempo comincia a calare la tensione, ci metti uno rapido. Però vorrei avere i dubbi di Spalletti, perché se andiamo a vedere il gioco delle figurine, la Roma è più forte del Porto, decisamente più forte, tanto che io sentivo più Robby, però come il Napoli era più forte dell'Atletico Bilbao e possiamo andare indietro lo so però mi sembra che sia una Roma estremamente decisa, ma almeno a parole e Spalletti sa bene che questa è una squadra che ha costruito lui. Improvvisamente i giocatori della Roma, anziché i ragazzini, sono arrivati esperti per vincere subito. Lui sa che deve fare molto bene subito e secondo me almeno per 2 anni Spalletti è il tipo che riesce a convincere i giocatori, a travolgerli anche guardandoli in faccia e spiegandogli che cosa chiede. Io penso che la Roma abbia più probabilità del Porto, io andrei sul 60-40 per esempio. Sì, sono d'accordo e credo anche Pierluigi. Sì, bello, 60-40. Ma poi ci sono le scaramanzie, quindi per carità, però voglio dire, mi sembra che la Roma abbia qualcosa di più, diciamo 55-45, dai. Perché in questo tipo di manifestazioni poi conta anche l'abitudine, conta anche, cioè a questi livelli il pallone scotta, no? Come si dice in gergo. Il Porto da questo punto di vista, come ambiente, come società, come struttura e anche con alcuni giocatori, non dimentichiamoci che ce n'è uno che ha vinto l'Europeo, insomma l'ha vinto poche settimane fa, potrebbe avere un vantaggio da questo punto di vista, però sugli 11 secondo me è la Roma più forte in generale. E sul discorso che faceva Roberto prima, io penso ieri c'è stato un passaggio in conferenza stampa secondo me abbastanza freudiano, perché Spalletti ha cominciato a dire giustamente che nel calcio 1+1 non fa sempre 2, quindi la somma del talento individuale della squadra, poi bisognerà vedere se ci sarà un moltiplicatore della qualità dei singoli oppure invece se non si combineranno. Lui quest'anno secondo me ha una rosa con dei punti interrogativi, sicuramente uno su tutti è Strootman, che stasera giocherà, perché comunque è uno che praticamente per 2 anni non ha giocato. Vermaelen è un altro che ha giocato poco ultimamente, cioè ci sono dei punti facci, un altro che bisogna capire come si adatta al calcio italiano. Però insomma, se cominciamo se tira fuori il meglio, se questa somma algebrica poi con la qualità di Spalletti dovesse funzionare, la Roma è una grande squadra, sì. Sotto la Juve, ma sul livello del Napoli e non così distante. Sì. Al di là del fatto che la Juve da qui al 31 agosto fa sicuramente qualcos'altro e sicuramente si rafforzerà in maniera ulteriore. Io ci metto lì anche l'Inter quest'anno, almeno ai nastri di partenza, anche ragazzi. Anche vi, sì. faccio sentire una cosa, poi mi rispondete a una domanda: se questa è una roba da social network e da largo consumo o può essere qualcosa di interessante. Si va in campo e si muore per la Roma! Per chi corro? Beh, Pierluigi Pardo e Roberto Renga la conoscete bene, ha spopolato i social network, immagini all'interno dello spogliatoio della Roma, non è un canto da curva, quello che parla non è il capultrama, è il preparatore atletico della Roma, quelli che rispondono in coro sono i giocatori. Siamo sul piano della campagna elettorale o può essere uno spirito che sta impossessandosi della Roma grazie a Spalletti? Piero. Ma guarda, ma non dicemi, è quello. Dicevo, è quello che fanno normalmente comunque i giocatori quando si mettono in circolo, no? Intorno all'allenatore oppure al capitano. Solo che questa volta l'hanno voluto far rendere noto. Dice, noi in questo momento siamo così. Ma è quello che ti dicevo, quest'anno la Roma sa di essere una squadra comunque completa, anche come esperienza. Cioè, tutti i giocatori espertissimi che hanno fatto un sacco di partite a qualunque livello. Manca Pjanic, ma c'è Strootman, per esempio. Florenzi potrà giocare a centrocampo. Ci sarà quindi anche la riserva per Eshala quando andrà in Egitto. E secondo me, in questo momento, Spalletti sta convincendo tutti che questo è l'anno buono. E allora, come vedi, non bada spese, nemmeno parole. Grazie Roberto, grazie. Grazie a voi, ciao Pierluigi. Pier, ci sentiamo subito dopo il traffico. C'è Giuseppe dalla provincia di Bari, poi continuiamo a chiacchierare insieme. 800 24 00 24, il numero verde. Questo è uno stadio che vivo per la prima volta, ma so che è molto caldo, quindi anche da quel punto di vista sarà una bella serata. Tutti convocati. Convocati. Ai ai ai. La conosci. Un Batmobile al latino muto. Numero in te cambiamo. No te la contattamo. Che se la noche mira me llamo. De India comenzó hablando me. Hey, I love this game. A proposito di calcio e sport al tempo dei social network, questo è Patrick Vieira che canta sulla sua macchina, la Batmobile. Eh? Patrick Evra che canta a bordo della sua macchina, cioè la Batmobile. Pierluigi, torniamo ai social. È cambiato tutto. Non so dirti se è meglio o in peggio, ma mi ricordo solo 3-4 anni fa che alcuni colleghi un po' snob, no? Nei confronti dei social network, che dicevano ma no, forse avevano ragione, perché poi è chiaro che questo può portare anche a dei problemi. I social network possono essere anche un veicolo certe volte pericoloso, di campagne abbastanza becere, quindi per carità, come tutte le cose della vita vanno regolamentate, però ecco, ormai i giocatori devono mandare un messaggio, gli basta prendere il telefonino, certo, farsi una foto con la maglia della squadra nella quale sono e tutti siamo lì che pensiamo, ecco, è un segnale sul fatto che vuole rimanere, piuttosto che dire sto partendo non si sa per dove e far seminare il panico. L'ultimo caso è quello di Reina in Italia, no? Che ieri ha invece voluto interrompere una voce, un sito di un giornale di Barcellona che diceva che si fosse offerto al Barcellona dicendo cazzate, lo dico io, ha scritto proprio lui in questo modo, pensiamo a domenica, pensiamo di stare al Napoli, quindi questa cosa ha cambiato clamorosamente la comunicazione attorno al calcio. Ma tu da uomo di comunicazione, a proposito di quel video diffuso dalla Roma che abbiamo fatto sentire prima, è campagna elettorale, è un modo per coagulare i tifosi, è un modo per convincere i tifosi, per convincere se stessi, come lo interpreti da uomo di comunicazione? È un modo secondo me sicuramente perché una roba del genere la può anche tenere chiusa e non aperta, diciamo, agli altri, sì, al pubblico. Secondo me sì, è una cosa un po' anche un'americanata, se vogliamo, però è una cosa divertente. Io vedevo quando è arrivato, ho visto un po' i commenti, le reazioni mi sembravano completamente positive, quindi poi alla fine i tifosi mi pare generalmente abbiano gradito. Giuseppe, buongiorno. Oh, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Voglio salutare Pardo, un grande, un mito per me, veramente bravo, professionalmente è il massimo. Di più. Mito, è il massimo. Io volevo chiedere a Pardo, sì. Ma non mi faccio diventare geloso, però, eh? Non mi faccio diventare geloso. No, va bene, ok. Siete tutti bravissimi. No, secondo no, me... no, a proposito di Pardo, cui prima ho dedicato una canzone d'amore, ma non mi faccio diventare geloso, dica. Ok, vabbè, volevo chiedere a Pardo, secondo lui, ma perché Mancini è andato via da lì? Cosa c'è sotto? Cioè, gli hanno comprato, ogni anno li compravano i giocatori che volevano, quest'anno bene o male di che questo si poteva lamentare. Solamente questo, vi ringrazio e vi sento dalla radio, grazie mille. Per me è un amore che non c'era più, insomma. No, l'amore non c'era più, certezze francamente io non ne ho, possiamo sicuramente distinguere due momenti molto diversi della permanenza di Mancini in Nerazzurro, perché aveva cominciato molto bene e nei primi mesi sembrava veramente un uomo tranquillo, tutt'altro che nervoso, molto risolto, anzi forse certe volte qualcuno poteva pensare che avesse poco nervo, e poi invece da quella famosa situazione in Coppa Italia in poi, con la squadra che è peggiorata, ha avuto momenti scatti abbastanza clamorosi. Io credo che Mancini sia uno dei pochi allenatori che hanno vinto e quindi questo secondo me lo porta a meritare un rispetto di un certo tipo. Cioè, sentito adesso insomma alcuni commenti sul fatto che Mancini fosse diventato un fardello per l'Inter, penso, questo mi sembra eccessivo, però è chiaro che si era rotto qualcosa ed è altrettanto chiaro che Mancini ormai nella sua testa è un manager all'inglese, è un uomo che vuole avere un controllo sul mercato di un certo tipo e che vuole mettere il suo entusiasmo e anche il suo carisma a disposizione della società, e quindi nel momento nel quale invece il feeling non c'era più, perché non si fidavano più di lui, perlomeno non si fidavano della possibilità, certo, di fargli fare il mercato che voleva, questa soluzione alla fine è stata la più logica. Ma non è stata secondo me solo una questione di mercato, sempre guardando le cose dalla tua stessa prospettiva, è la questione di un rapporto fiduciario che è fondamentale e che non esisteva più, ma probabilmente dallo scorso maggio. È stata una vicenda paradossale dell'estate, tanto è vero che Mancini è stato praticamente licenziato dall'ex presidente dell'Inter, ora non più azionista di maggioranza, cioè Rick Toier, che ha forse preso la decisione più importante della sua carriera presidenziale all'Inter, ora che non è più azionista di maggioranza, ripeto, mentre Mancini era stato fortemente voluto dal precedente ex proprietario dell'Inter, non più azionario di maggioranza, cioè Massimo Moratti. È stata una vicenda molto curiosa, tutto abbastanza incredibile, anche se poi io sono convinto che rimanga la forza del marchio Inter, come del marchio Milan. Cioè, io credo che questo chiaramente apre tutta una serie di scenari e di punti interrogativi sulla passione, sui presidenti di una volta che non ci sono più, questo è evidente. Però è altrettanto evidente che, per esempio, Toier nel suo lavoro di trading, perché tale è stato, Toier ha fatto i soldi legittimamente con l'Inter, sì, in questa sua permanenza, sì. E per carità, non è assolutamente proibito, e anzi gli facciamo i complimenti. Ma oltre ad aver fatto i soldi e aver fatto un buon trading con l'Inter, secondo me ha aperto l'Inter a una dimensione internazionale che oggi potrebbe essere quella decisiva. Magari oggi ancora non se ne accorgono i tifosi e possono rimpiangere una gestione un pochino più tradizionale, magari tra 5 anni o 10 anni scopriremo che questo tipo di gestione ha portato a dei risultati di un certo tipo, e tutto sommato anche la Roma, che pure certamente non ha beccato i proprietari più facoltosi, perché insomma i tipi all'Abramovic non ci sono più, perlomeno in Italia non vengono più, questo mi sembra abbastanza chiaro, però comunque con tutti i suoi difetti, però con la società mi pare che ogni anno, magari facendo troppo trading, cioè facendo tanti acquisti e tante cessioni, però poi anche quest'anno il mercato lo sta facendo, cioè la famosa mossa lì del Gherardo, del gatto maculato, mi sembra che alla fine settimana dopo settimana stia venendo fuori, perché se la Roma dovesse prendere anche Borja Valero, secondo me ha costruito una squadra con una varietà di soluzioni enorme rispetto al passato. Sono d'accordo, esce dal mercato rinforzato nonostante la perdita di Pjanic. Fabio, buongiorno. Piccolo difetto nei tanti pregi di Sabatini, secondo me un piccolo difetto è che, essendo lui uno dei massimi esperti di giocatori, qualche volta si fa un po' prendere la mano. Ad esempio è chiaro che Alisson e Szczęsny in questo momento sono un lusso, poi magari saranno un bel lusso, però visto che la Roma non è che proprio c'ha i soldi, no, cioè ha dovuto fare comunque per sua stessa missione una campagna acquisti oculata sulle occasioni eccetera, lì forse non c'è stata l'efficienza massima. No, io sono sempre contrario. Sabatini è uno che quando vede una, anche Gerson, no? Quando vede un'occasione di un giocatore che pensa che possa rivalutarsi nel giro di qualche anno, va e compra. Allora, e qualche volta senza avere, secondo me, il 100% di gradimento da parte del... Sì, io sono sempre e sarò sempre contrario, e nessuno riuscirà a convincermi in maniera dell'opposto, che l'alternativa tra i portieri sia un problema per qualunque tipo di squadra e per qualunque tipo di allenatore. Cioè il portiere è l'unico ruolo in cui il turnover può solo essere dannoso. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo sapere una cosa. Volevo sapere perché è così difficile avere lo stadio di proprietà e quale sarà la prossima squadra secondo voi ad averlo. Scelto una domanda grazie. Facile per il 17 di agosto, grazie. Dobbiamo chiamare Virgilio Raggi, non lo so. La Roma è molto avanti, nel senso che sono da anni che si parla di questo tipo di progetto, ma sappiamo che poi la politica ha un suo ruolo. E la Raggi che ha stravinto le elezioni, l'ha detto, insomma, poi alla fine ha preso una quantità di voti impressionante, anche dalle prime mosse della sua giunta ha fatto capire, diciamo, che non considera tutto questo, come del resto anche le Olimpiadi, una priorità. Una priorità assoluta, certo. Io credo che gli stadi di proprietà siano importanti, chiaramente sono un investimento di lungo periodo, non sono un qualcosa che dice lo stadio vinco, anche se nel caso della Juve c'è stata una corrispondenza diretta fra quando lo stadio è stato inaugurato e il fatto che la squadra è tornata a vincere. In parte secondo me ha contribuito, in parte è stato anche un po' un caso, sì. Però in generale è un tipo di situazione che si deve fare, anche perché è un modo, come direbbe il professor Berinazzo, per dare degli asset, no? Per patrimonializzare. Senti, è un po' che non ci parliamo, io ho voglia di condividere con te diverse sensazioni, prima di Stefano dalla provincia di Avellino e prima di salutarti. Tornando all'Inter, ma secondo te perché la maggioranza dell'opinione pubblica nerazzurra, io ho sotto gli occhi un messaggio, così bravo Mancini che si picchieranno le big per prenderlo, scrive Gianluca, perché la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica nerazzurra è così astiosa nei confronti di Roberto Mancini, che pure qualcosa ha vinto con quella maglia e sotto quella bandiera, però non adesso. Ma non adesso, ma non c'erano neanche le condizioni, non c'erano le condizioni per vincere, perché a costo di sembrare democristiano, a me piace valutare le cose in prospettiva. Allora, Mancini è uno, non è che è arrivato da 3 settimane, è uno che conosciamo, che fa calcio, prima da calciatore e poi da allenatore da 30 anni, quindi la valutazione deve essere una valutazione complessiva. E da allenatore la valutazione di Mancini non può che essere positiva, perché non sono molti gli allenatori che hanno perfetto vinto. Ma allora perché l'opinione pubblica nerazzurra è così? Perché questo periodo ha fallito, e nel calcio ti ricordi l'ultima parte dell'esperienza. Sì, però perdonami, contro chi doveva fare la guerra, Pier? Con la Juventus che è imprendibile, con la Roma e il Napoli più forti? No, però a me non è piaciuto il Mancini dell'ultima esperienza all'Inter, dal punto di vista tecnico, cioè mi aspettavo di più. C'è stata tanta confusione, ha avuto nei primi tempi soprattutto carta bianca dal punto di vista del mercato, ha speso dei soldi, Doppia l'ha preso strappandolo al Milan, ha fatto tante cose, ha fatto tanti acquisti. Io credo che uno dei motivi di malumore di Mazzarri nel nord-ovest di Londra, magari ci starà ripensando ogni tanto, è che a lui non era stato dato lo stesso credito sul mercato, e Mancini, pur avendo avuto credito e risorse sul mercato e possibilità di spendere, è andato come Mazzarri, se non peggio alla fine, quindi, o comunque X, con però molte più risorse. E Mazzarri magari in corso può pensa che se gliel'avessero dato a lui queste possibilità avrebbe fatto qualcosa in più. Quindi sì, però se io fossi un tifoso dell'Inter sarei contento di avere un allenatore che mi fa comprare i giocatori, molto banalmente. Sì, certo, ci sono gli specialisti del genere, poi però devi anche fare risultato, e devo dire che insomma, secondo me la cosa è molto semplice. Mancini, se guardiamo la carriera di Mancini, rimane un ottimo allenatore. Nell'ultima esperienza all'Inter io mi aspettavo di più, e secondo me ha fallito, non è andato bene, ma credo che lo sappia anche lui, e credo che poi alla fine uno dei motivi fondamentali per i quali ha chiuso è perché non vedeva la possibilità quest'anno di fare meglio, anche se l'Inter secondo me è una buona squadra, perché si sta rafforzando. Poi 40 milioni per Joao Mario mi sembrano tanti, ma questo anche a me, anche a me. Grazie Pier, senti, ci sentiamo domani, ormai? Domani sarò in transito a Lisbona, quindi gli orari saranno ballerini, ma ci sentiamo. Va bene, dedicato Guido Without You, e io ho anche una parola molto romantica come patrimonializzare. Sì. Oh, grazie, ti voglio bene per questo, grazie. Ciao amico mio. Allora, ci fermiamo per la borsa, poi Stefano dalla provincia di Avellino stia con noi, perché torniamo subito. 800 24 00 24, il numero verde. Tra poco nuove notizie, a più tardi. Pigia il coso rosso, grazie. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Ah, ragazzi, vi ricordo che per le Olimpiadi e per tutti i temi olimpici l'appuntamento è dalle 18 alle 20 come ogni giorno in questa estate olimpica, quindi raddoppio delle possibilità, raddoppio dei temi, raddoppio degli argomenti, raddoppio delle discussioni, e io vi aspetto tutti lì al Varco alle 18 con Leo Turrini e tutti gli ospiti che avremo. Stefano, buonasera, buongiorno. Pronto, buongiorno, salve. Buongiorno. Grazie dell'occasione, spero grazie mi diate un minuto, insomma, se mi deste sì, questa prego, opportunità. Prego, dunque, prego. Io vorrei sapere, dopo la cessione di Higuaín, no? La Juventus evidentemente si è rinforzata nonostante abbia perso giocatori anche quest'anno come Pogba, prima fra tutti, e poi anche Morata, no? Voi pensate che questi amichevoli possano essere un test probante, che la Juventus possa tenere il passo di squadre come Chelsea, Barça, Real e Bayern Monaco per centrare l'obiettivo, che mi pare che sia quello che vuole? E poi un'altra cosa, rispetto alla Roma vorrei sapere, questa sera col Porto si sono galvanizzati, visto che è la squadra più rappresentativa di quella nazione, e vorrei dire che a Roma i controlli biometrici è una bella scelta, tanti si lamentano, io credo che chi c'ha la coscienza a posto, non c'è nulla da nascondere, non c'è la coda di paglia, i controlli biometrici vanno bene. Dopo il caso Raciti e quello di Esposito, dove c'è stata una madre che è stata insultata dopo la perdita di un figlio, vuol dire Roma è una città incivile, una città di tanti trogloditi, dove c'è degrado, dove veramente si gira anche con le armi, è una città. Beh, insomma, e concludo. No, è una città. Beh, non esageriamo. Trogloditi, non ci sto con queste definizioni, sì. Stefano, no, con tutto rispetto. Sì. Poi non, posso dirle, io non ci sto neanche con i controlli biometrici. No, poi rispondo. Io una volta sono stato là, mi hanno preso a calci, mi hanno detto tu sei un tifoso, sei un campano, così vatti a buttare nel Vesuvio. Oltre a tutta questa indisciplina, questa inciviltà, vorrei dire sono delle persone secondo me che dovrebbero finire nelle carceri piene. Un saluto da Michele Caruso. Sì, Michele, io la ringrazio, secondo me lei è esagerato, perché quei termini non sono generalizzabili e non possono essere rivolti a nessuno. Sui controlli biometrici ognuno la pensa come vuole, io sono contrario al fatto di sottopormi a radiografia, a tessere tifoso, a esami del sangue, esami delle urine e quant'altro per entrare dentro a uno stadio. Io sono contrario a queste intromissioni nella privacy delle persone, anche dei bambini, dei minori, di tutti quelli che volete. Sono profondamente contrario a tutte queste cose. Poi, se volete fare i test biometrici, fate Bobis. Io parlo d'altro. Carlo Laudisa, dalla Gazzetta dello Sport, ciao. Ciao, permettimi di essere solidale con te e poi torniamo al mercato. Sì, poi torniamo al mercato, però io francamente di farmi fare i raggi X per entrare a vedere, non lo so, Chievo-Pescara, lo lascio a te, insomma, lo lascio ad altri, lo lascio a chi vuole andarci, lo lascio a chiunque, non mi interessa. Senti, invece, a proposito del mercato, lì possiamo partire dalla Juventus. È una squadra completa e compiuta questa Juve? Completissima ancora non è, perché il mercato ci dice che nelle ultime due settimane ci saranno altri movimenti. Oggi capiremo di più se può tornare Cuadrado, se effettivamente Matuidi e Witzel possono arrivare contemporaneamente. Insomma, le trame aperte sono tantissime, però è stato fatto già moltissimo, quindi è una Juve destinata a cambiare pelle in maniera clamorosa e a prima vista poderosa. Sì, intanto oggi è saltato il trasferimento di Zaza al Wolfsburg, sì. È una delle storie dell'estate, no? Zaza è stato là per vedere se gli piaceva la città, sì. Per vedere se l'aria era buona, per vedere se eccetera, secondo me si è deciso di andare un po' troppo tardi. Esatto. Si fosse deciso diciamo una settimana prima, forse alla fine la storia di Gomez non sarebbe cresciuta. Sì. Vediamo quando andrà a finire. Di sicuro Zaza ha avuto in mano un'offerta rilevante da 3 milioni e 3 per 5 anni, insomma. E era un'opportunità professionale significativa. Bravo. Vedremo adesso come si adeguerà. No, ma poi anche al di là dell'offerta economica considerevole, io penso che un giocatore che è comunque nel giro della nazionale in rampa di lancio, che è comunque molto giovane, che ha bisogno di giocare, al di là del quattrino, debba pensare a trovare delle soluzioni per potersi valorizzare e per poter giocare. Questo lo penso in valore assoluto, al di là di Zaza e del Wolfsburg. Sì, Zaza ha avuto l'opportunità la scorsa stagione, se l'è giocata bene in parte, però evidentemente ha pagato questa scelta epocale della Juve di investire 90 milioni sul super cannoniere di tutti i tempi, quindi un po' sfortunato, il talento evidentemente non gli manca, deve avere la forza per rimettersi in discussione. C'è una voce di Spalletti che parla a proposito del mercato della Roma, poi giro la domanda a Carlo Audisa. Cavallero, piace a tutti. Noi ora con l'arrivo di Bruno Perez abbiamo la possibilità di avere anche quando giocherà lui un centrocampista in più, perché Florenzi può giocare anche a centrocampo, per cui per il momento noi siamo a posto così. Per il momento noi siamo a posto così, poi vediamo come va questo preliminare. La Roma investirà dei soldi in caso di passaggio del turno del preliminare. Sì, certamente. È chiaro che Spalletti è in trepida attesa anche per questo, e Sabatini ha un po' di tracce, no? Le ha già lasciate, Diawara stesso, su cui si sta tuffando anche il Milan. La traccia Bocavalero la vedo un po' più difficile perché la Fiorentina non lo molla. Però i movimenti ci sono. I movimenti ci sono. E altra storia dell'estate, Inter-Icardi, è finita, no? Inter-Icardi-Napoli, questo triangolo un po' perverso, è finito, ma, no? Sì, l'offerta c'è stata, è stata ricca, ma l'Inter ha detto fieramente no, la nuova proprietà crede in Icardi, come crede in Brozovic, è stato il no alla Juve per il croato. Insomma, l'Inter è... Io credo che dopo la Juve la società che si sia mossa con più determinazione in attesa del tesseramento che diceva Mario. 40 sono troppi però, Carlo. Sì, quantomeno sono tanti. Non sono pochi. Vediamo. Allora, abbiamo un facile termine di paragone. L'anno scorso l'Inter spese 38 milioni per Condobbia ed è andata come è andata. Per Gio Mario le credenziali sono migliori. Se dovesse rispondere alle attese, allora devo dedurre che la lievitazione dei prezzi è un fatto che ormai è sotto gli occhi di tutti, e quindi per accaparrarsi un talento di questo livello, se sarà tale, occorre fare investimenti così rilevanti. Purtroppo. Purtroppo. Io non lo dico perché mi piace. Deve uscire. I prezzi salgano. Deve uscire Brozovic, no? Ma non so se debba, perché allora c'è il solito discorso, perché molti mi chiedono, ci chiedono, ma il fair play finanziario che fine ha fatto? Allora, io ho l'impressione che sulla vicenda del fair play finanziario innanzitutto aspettiamo le elezioni dell'UEFA, sì, cosa accadrà col nuovo governo. E per quel che riguarda gli accordi dell'Inter, tutto il bilancio verrà fatto a giugno, quindi eventualmente c'è il mercato di gennaio per porre riparo con delle vendite. E poi, secondo me, c'è un effetto rilevante di cui non si potrà non tener conto, l'arrivo di nuovi padroni che hanno dei progetti ambiziosi, e quindi sinora il fair play finanziario ha aperto le porte agli investitori sani, e sino a prova contraria, Suning, la famiglia Zhang e tale viene ritenuta. Sì, senti Carlo, un'altra bella storia d'amore, di corno, un altro bel triangolo è quello che lega il Napoli al Torino, a Maximovic, al fatto che Mihajlovic dica Maximovic mi ha tradito, che poi Maximovic probabilmente non andrà a Napoli ma in Inghilterra. Com'è questa situazione? Sì, esattamente così. L'imperfetto userei, nel senso che il Napoli ci ha provato, ha offerto 25 milioni, credo che si fossero sorti dei problemi fra le due proprietà sulla vicenda Valdifiori, e quindi il Torino ha eretto un muro sia con il giocatore, che evidentemente sarà punito per la fuga, ma anche verso il Napoli. Quindi in questo momento c'è un interesse forte del Chelsea, ma che ha però altri obiettivi, e c'è una proposta concreta anche a West Ham. che potrebbe essere gradita al giocatore, per cui il lieto fine di questa vicenda porta a Londra, destinazione West Ham. E a Napoli Crescito Caceres, si legge. Sì, più o meno questo è il canovaccio di un finale di mercato in cui Napoli, oltre ad accogliere anche Rogo, il croato, dopo aver preso Zielinski insieme a Milik e a Giaccherini e a Tonelli, forse deve ancora fare un'altra operazione a centrocampo. Ecco, vedremo. È interessante il futuro di Diawara, perché alla fine Diawara si vedrà conteso, a mio modo di vedere, fra la Roma, se passa il turno, lo stesso Napoli, e vediamo questa sortita del Milan dove porta, perché sì, i soldi sono finiti, Sì. O meglio, stanno finendo. Sta finendo, altro che. Un'ultima cosa riguarda un'altra coppia che mi sembra interessante: Tevez, che è stato accostato con bellissima suggestione secondo me al Napoli, ma trattasi di suggestione perché viene smentita da tutte le parti, e poi c'è il problema Insigne, che è un'altra delle vicende di mercato dell'estate. Sì, per questo al Napoli è stato anche associato Balotelli, no? Io ho l'impressione che in questo momento la sorpresa Wolfsburg ha un po' scombinato i piani del mercato italiano, perché alla fine il Napoli si tiene Gabbiadini, altrimenti se Gabbiadini fosse andato al Wolfsburg magari Zaza poteva tornare utile per il Napoli. In realtà credo che in questo momento non c'è un acquirente per Gabbiadini, quindi lì davanti non arriva nessuno al Napoli, e da vedere tutto il resto, perché comunque io dico che su Insigne comunque sul rinnovo una soluzione verrà trovata. Sì, mentre Tevez è destinato a rimanere nelle fantasie popolari, giusto? Ma Tevez sicuramente al Boca non si è trovato come si sarebbe aspettato. C'è stata anche un'ipotesi Inter, visto che il suo agente è molto vicino alla nuova proprietà nerazzurra, ma questo è un aspetto che secondo me passa in secondo piano. Questo è un last minute, ma in questo momento non verosimile. Grazie Carlo, grazie, sempre un a voi, piacere. Un saluto. Ciao, ciao Carlo Laudisa, Gazzetta ciao. Dello Sport. Allora, noi ci fermiamo per il traffico. 800 24 0024 è il numero verde, messaggi SMS, WhatsApp 349 238 6666. Ci sentiamo tra pochi secondi. Calma, il mercato è appena cominciato. Tutti convocati. Stiamo in un punto molto diverso di quello che eravamo l'anno scorso, consci di quello, anche e abbiamo già parlato diverse volte anche su di questo. Stiamo crescendo, i giocatori che siamo integrati, che sono arrivati più tardi, e quelli che si stanno integrando alla nostra idea di gioco, e anche al nostro spogliatoio, cioè piano piano stiamo crescendo per iniziare per il campionato. Questo l'avete riconosciuto, è Paolo Sosa che prova a spiegare i motivi per cui la Fiorentina è stata davvero poco brillante in questo precampionato. Benedetto Ferrara è in ferie, ma scommetto che nemmeno per un giorno riesca a staccare il pensiero dalla Fiorentina, di cui poi ci racconta sempre su Repubblica. Ciao Benedetto. Ma ragazzi, io vi dico la verità, in moto in Maremma, nelle strade tra Manciano, Pitigliano, sti cazzi, però distratto un po', Sì, sì, sì, bravo. Anche perché tra poco comincia tutto, no? Non è che poi questi giorni di svago siano così tanti, quindi dovevo approfittare. Però grazie per avermi chiamato, e soprattutto grazie per parlare un po' di Fiorentina, della quale si parla poco, anche perché insomma non è che sia stato un mercato spumeggiante, quindi capisco anche. Però inizia il campionato in casa della Juve, quindi questo è un motivo anche per parlare di una partita, come dire, che come sapete Firenze sente molto, sì, per ovvi motivi. Anche se Sosa dice che siamo intermittenti come le lucine di Natale, però contro la Juve possiamo riaccenderci. Tanto tra poco ti lascio riaccendere la moto, perché non ti voglio rompere scatole più di tanto. Anche se sarei molto curioso di sapere dove sei e qual è il griglio lessicale. Ma guarda, io intanto voglio dire, Montemerano, sai dov'è Montemerano? Sì. È tra Manciano e Pitigliano. Sì. È una strada meravigliosa, e in motocicletta è il top, capito? Vabbè, detto questo, che interessa poco. No, interessa poco, interessa poco, non so a chi, a me interessa tantissimo, anche perché io sto in rota totale, non della Fiorentina, ma della moto. Ma comunque, altro discorso. No, però una cosa va detta. Cioè, chiaramente Sosa, che poi è il vero caso, secondo me, nel senso caso che la gente si chiede quanto lui ci creda, no? Perché lui, insomma, l'anno scorso partì alla stragrande, poi ci fu un mercato di gennaio che fu un blackout, e la Fiorentina lì mollò un po' gli ormeggi, e lui parlò di un calo di tensione, che lui aveva avuto un calo di tensione. Sì. E questa cosa, siccome nel frattempo il mercato è stato fatto per migliorare la panchina, la squadra è la stessa, il mercato poi non è ancora finito ovviamente, però avvicinandoci al campionato, lui era chiaro che doveva spiegare che ripartire come l'anno scorso non era semplice, anche perché l'anno scorso fu una Fiorentina incredibile, sorprendente, c'era un Kalinic pazzesco. All'inizio, però va detto anche che il precampionato non è stato tanto intermittente, è stato proprio deprimente. La Fiorentina ha perso 5 partite di fila e ha subito 11 gol, ne ha segnati solo 3. Questo però nel cuore fa pensare al fatto che non ci sono grandi illusioni adesso, non c'è, e in fondo questa partita allo Juventus Stadium, no? Magari succede qualcosa di... Magari. Sì. Cioè, è un... Magari, vediamo. No, dico magari, ovviamente, magari lo dico per i tifosi della Fiorentina, che giustamente non sono particolarmente, come dire, elettrici, no, in questo momento. Però va anche detto che la cosa migliore l'hanno fatta loro andando a abbonarsi. E comunque superando i 15.000 abbonamenti in una stagione... dal mercato un po' moscio, sono d'accordo, diciamo. Sono d'accordo con te, è stata una grande dimostrazione, perché i tifosi della Fiorentina, tu li conosci meglio di tutti quanti, essendo partecipe di questa passione, sono molto ondivaghi, no? Oggi è tutto meraviglioso e siete tutti dei bastardi perché non dite che siamo i più forti, domani invece siamo i più scarsi e devono morire tutti quanti, compresi della Valle. No, però, tu sai che è così, no? Cosa? Vabbè, innanzitutto il Guelfi Ghibellini non è un caso se è bravo, Benedetto. Però tu mi insegni anche un'altra cosa, che la passione è così. Cioè, lo so. La Fiorentina è talmente amata che quando ti fa, come dire, non riesce a avere l'indifferenza, e questa è la cosa bella, no? Cioè, quando c'è amore non c'è indifferenza, c'è un sentimento sempre che comunque c'ha il sangue dentro. Sì. E i fiorentini sono sanguigni, su questo tanto, anche se siamo fatti così, che ci vuoi fare? Nulla da fare, amico mio. Ed è così. E poi c'è anche ironia, però. C'è anche ironia. Non c'è dubbio. No, ma io adoro tutto questo. Ovviamente ci scherzo sopra, ma adoro tutto questo. L'ultima cosa che ti chiedo, ti prego però di essere sincero: non è che tra Sosa e la proprietà sia una storia d'amore già finita, che sia un po' come Mancini e l'Inter, che sia confermato sotto condizione, che sia pronto ad essere discusso? Allora, sicuramente Sosa, che è un ambizioso, molto ambizioso, e questo non è un male per un allenatore importante, però lui, diciamo che quando la Fiorentina è andata in testa si aspettava un sostegno, no? Al mercato di gennaio l'anno scorso, che non è arrivato, insomma, sono arrivati i giocatori rotti, Benaluan non ha mai giocato, insomma, situazione abbastanza imbarazzante, il difensore doveva arrivare d'estate e non è arrivato nemmeno a gennaio. E lì c'è stato un momento di forte attrito, anche perché Sosa è uno che ama gestire, è un po' un allenatore manager, no? E invece gli hanno detto: guarda, te occupati di campo, scusa se ora mi ha fatto parlare fiorentino proprio, di campo, vabbè, e occupati del campo, e no. Allora lì c'è stato un po' di... perché lui comunque non si voleva dimettere, la proprietà non voleva cacciarlo, no? Perché comunque era stato in testa alla classifica, poi c'era stato Montella... E si è continuato su questa strada. La tua domanda è assolutamente giusta, in questo senso, era quello che dicevo. Bisogna vedere Sosa quanto sia, non ti dico motivato perché è un professionista, non voglio pensare che lavori alla mena, no? No, però tu stai bene, detto, quanto si amino ancora, cioè il problema è questo, perché no, secondo me se c'è una cosa sbagliata in qualunque ambiente, in qualunque società, in qualunque sport, esatto, è confermare un allenatore se non sei convinto, sotto condizione. Che poi vediamo cosa succede. Questo è il modo peggiore, è il modo migliore per rovinare le cose. Questo è... Guarda, io partendo da quello che dicevamo prima, cioè dai tifosi che comunque ci sono e non mollano mai questa passione, cioè secondo me tutte le squadre, tutte le squadre, ma ancora di più una come la Fiorentina deve far leva sull'orgoglio, l'appartenenza e l'entusiasmo. Se non c'è questo si perde tantissimo, tenendo conto che comunque la squadra è la stessa dell'anno scorso, invecchiata ad un anno, è una squadra che era stata prima, ma poi si è, come dire, è stata risucchiata nella propria un po' apatia la seconda parte della stagione, sempre tenendo conto che un quinto posto per la Fiorentina è un buon risultato. Un gran risultato, sì, sì. Detto questo, volevo chiudere con una cosa, mi citavi l'ironia, a Scandicci, che tu sai appena fuori Firenze, proiettano la partita in un cinema, come fanno sempre, in un teatro, ma hanno fatto anche un corso per insegnare a pregare i tifosi della Fiorentina. Non ci credo. Sì, sì, c'è proprio un manifesto con scritto corso di preghiera, insegniamo a pregare i tifosi, che è una cosa come dire, cioè prendere in giro gli altri ma anche noi stessi, mi sembra una cosa buona, no? Scommetto un boom di iscrizioni, non ho alcun dubbio. Senti, Benedetto, ti lascio la moto e mi sento un po' in colpa per averti disturbato, ma tornerò a farlo, Vabbè. Ciao. Un saluto a tutti. Ciao, buone ciao, vacanze, che vacanze a voi. Ciao. Ciao, ciao, Benedetto Ferrara. Io vado rapidamente da Pietro e poi faccio un salto in Brasile da Dario Ricci. Pietro, dica. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare sulle Olimpiadi, la corsa di Nibali, no? Sì. Ma di un certo Alain Philippe, che era dietro a Nibali, mi sembra, nella famosa discesa della caduta. Ma poi Alain Philippe è rimasto indietro, è caduto anche lui. Non so spiegarmi, perché mi sembrava che era il corridore più in forma del gruppetto degli inseguitori. Ma a me il corridore più in forma in quella corsa sembrava essere proprio Nibali. Filippo credo sia rimasto coinvolto in quella caduta e quello di Nibali rimane per me il più grosso rimpianto che di questa Olimpiade, almeno fin qui. Poi ce ne sono stati molti altri, ma ognuno vive l'Olimpiade, le sensazioni che l'Olimpiade porta come ne ha voglia. Ci colleghiamo proprio col Brasile. Ciao Dario Ricci, nostro inviato. Ciao Carlo. Allora, lanciami il puntatone di questa sera. Tutti convocati alle Olimpiadi dalle 18 alle 20. Oggi cosa succede? 100 medaglie italiane, un sacco di finali. Che succede? Beh, oggi super puntata, super puntata. State con noi perché vi racconteremo tutto del Sette Rosa, che è in acqua alle 17:20 italiane. Contro la Russia per giocarsi un posto nella finalissima, siamo in semifinale, è chiaro, partita da vincere a tutti i costi per mettersi al collo almeno l'argento, e quindi vi racconteremo le fasi finali della partita ma anche tutto il dopo partita. Sì. E se perdiamo ricominciamo subito con la polemica, invito gli ascoltatori, ma i russi non dovevano essere lì, cosa ci fanno lì i russi, ma il CIO perché li ha lasciati andare, ve lo garantisco che poi partiamo con questa polemica trasversale qui, se perdiamo, se vinciamo invece no, va bene, lasciali pure lì i russi. infatti, sì, beh, è così. E poi chiaramente c'è la vigilia Italia-Iran, nel senso che poi alle 18 locali, che sono le vostre tardi. 23, esattamente, c'è Italia-Iran, quarto di finale del torneo di volley. Sulla carta facile, ma attenzione perché gli iraniani sono cresciuti molto sotto la guida prima di Velasco e adesso di Lozano, ma chiaro, questo vale anche questo vale un posto in semifinale dove affronteremo nel caso di vittoria la vincente di Stati Uniti-Polonia, quindi tutt'altra avversaria, ma insomma bisogna entrare nel giro delle medaglie. E poi oggi è la giornata anche dei quarti di finale del torneo di basket che dovrebbero essere già iniziate, credo che siano in campo Australia e Lituania, però insomma sì. Stati Uniti e Argentina, gustosissimo, insomma. Stati Uniti e Argentina che chiude il programma, ma io Serbia-Croazia non vorrei perdermela, se ti posso dire la verità. Sì, 22:15 locali, quindi tu dovrai farti il tuo pippitone di caffè. E allora, cioè tu vale sai, dalle Olimpiadi finisci sempre abbastanza tritato, però questo è il nostro destino di amanti dello sport. Ci sta. Quindi insomma tutti convocati alle Olimpiadi, puntate da non perdere. Ma certamente, ci sentiamo dopo allora Dario, ci sentiamo alle 18, alle 18:05 per tutti convocati alle Olimpiadi. Intanto io chiudo questa puntata di Tutti Convocati ringraziando Giovanni Melchiori, Alvise Falzoni in redazione, Gianmarco Ferronato immancabile in regia. Ci sentiamo questa sera alle 18:05 tutti convocati alle Olimpiadi e fino alle 20. Guai a voi se mancate. sono andato a cercare notizie, ma oggi non c'è niente. Ci vediamo stasera.